I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Le indico degli oggetti e lei mi dirà come si chiamano. Le indico degli oggetti e lei mi dirà come si chiamano. The key. È la chiave. È la chiave. The glass. È il bicchiere. È il bicchiere. The watch. È l'orologio. È l'orologio. The glasses. Sono gli occhiali. Sono gli occhiali. The telephone. È il telefono. È il telefono. The comb. È il pettine. È il pettine. The scissors. Sono le forbici. Sono le forbici. The razor. È il rasoio. È il rasoio. The envelope. È la busta. È la busta. The pencil. È la matita. È la matita.